as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui oggi al Pane e le Rose, la trasmissione di noi operai metalmeccanici di Bologna, di tutta Italia, di tutto il mondo. Oggi parleremo di un contratto metalmeccanico, il contratto, lo possiamo definire così, di Bologna, ma che ha avuto un eco a livello nazionale. Toyota ex Cesab Bologna, nella zona industriale di Calderara, di Reno, Bargellino, Borgo Panicale, una fabbrica importante con tanti dipendenti, in crescita, un grande accordo, c'era stato l'accordo delle 7 ore di cui abbiamo fatto una puntata, hanno firmato il contratto interno, ci sono tante cose interessanti, un contratto da estendere dove si può, bisogna farlo perché ci sono molte cose veramente utili per noi lavoratori, importanti, diritti, soldi, insomma, tante cose. Ne parleremo con Fabio Torlai, delegato della FIOM, della Toyota, e ci sentiamo un bellissimo pezzo. Poi Fabio l'abbiamo sentito durante la manifestazione dei delegati della CGIL che c'è stata a Bologna il 9 di giugno, e poi ci sentiamo per le conclusioni. Adesso non c'è niente, amore. possa somigliarci in fondo. E quello che eravamo adesso non lo siamo, e forse lo saremo. Salve a tutti, siamo qui alla manifestazione del 9 qui a Bologna, la manifestazione della CGIL, dei delegati della CGIL in piazza 8 agosto. Abbiamo incontrato Fabio Torlai, il delegato della Toyota, reduce dalla stipula di uno dei contratti migliori addirittura in Italia. Ne abbiamo parlato anche nel comitato centrale della FIOM, come con un contratto interno innovativo in questo momento così di difficoltà. Per questo non potevamo che chiedergli, insomma, di spiegarci un po' le cose più importanti di questo contratto per poter far ascoltare a tutti i lavoratori metalmeccanici che i buoni contratti si possono fare. Buongiorno a tutti. Sì, noi siamo in realtà forti di quello che è una grande tradizione bolognese, emiliana, di contrattazione. Siamo felici di poter vantare, insomma, di essere gli eredi di una lunga storia. Quello infatti che sul quale abbiamo lavorato, a parte temi generali che toccano le vite delle persone, è stato andare a puntare su alcuni capisaldi, anche come stimolo nazionale, quali la valorizzazione professionale anche in un'azienda prettamente produttiva, dove ci sono ancora le catene di montaggio, cosa che non sembra più esistere e del quale nessuno più parla. Ormai i ragazzi giovani addirittura non c'è più l'orgoglio operaio, c'è quasi una vergogna, no? Di dire che si fa parte della classe operaia, quando in realtà è la classe trainante motore di questo paese. Quindi abbiamo un nuovo sistema inquadramentale, abbiamo lo stesso scritto alcune nuove categorie dove l'inquadramento, dove le persone verranno inquadrate. L'impegno nei prossimi anni è quello di costituire un reticolo professionale calato sulla realtà aziendale per tradurre le declaratorie nazionali in quello che è la realtà aziendale, con un livello minimo alla terza S, perché il lavoro di qualità, il lavoro italiano, il lavoro delle nostre maestranze, delle nostre persone che lavorano nelle nostre fabbriche vale, non può essere deprezzato sempre a favore di quello che è una logica di profitto. Il reddito deve essere redistribuito, quindi ingresso minimo al terzo S, abolizione totale dello staff leasing. In Toyota i vecchi delegati avevano ottenuto una diffida nel 2015 all'utilizzo dello staff leasing, noi siamo riusciti a sancire che questa è una pratica che non è consona alla realtà industriale di Bologna, una realtà industriale italiana che vuole essere un riferimento nel mondo. Questo è un primo punto. A livello della politica salariale, sì, abbiamo ottenuto qualche denaro appunto per il concetto della distribuzione che dicevamo prima, ma abbiamo ottenuto soprattutto formazione. La formazione che è stata portata da 32 a 36 ore annue, era già 32, migliorativo rispetto al contratto collezionale. Diritto individuale allo studio, aumentate le ore, ma soprattutto abbiamo fatto pagare all'azienda borse di studio per il post diploma STTS, laurea triennale, laurea magistrale e master, perché se davvero vuoi che le persone rimangano da te, rimangano qua, rimangano a produrre qualità e concetti nuovi per un'industria sempre più sostenibile, l'azienda deve copartecipare e motivare l'entusiasmo dei giovani ragazzi. Ottimo, questo qua ce l'abbiamo anche noi in Bonfiglione. Certo, sì, chiaramente, come dicevo prima in apertura, è sull'onda di una grande tradizione di contrattazione bolognese in Bonfiglioli piuttosto che le grandi aziende, ma è proprio su questo filone ricordare sempre che siamo figli di una storia e che questa deve essere portata avanti da noi e non aspettare che gli altri ce la portino avanti per noi, ecco. Giusto. Abbiamo fatto, sì, chiaramente punti sullo smart working, siamo riusciti a portare in un'azienda strettamente produttiva dove l'azienda era contraria perché è incentrata ancora a una logica buona, ma vecchia, quella di un vecchio artigianone che adesso gioca alla multinazionale, no? Sì. Dove il rapporto con le persone è un valore, certo, ma c'è anche la paura, no, di non avere le persone fisicamente lì, no? Il brevimano che dell'italianità fa un'eccellenza, con lo smart working ha sollevato anche delle paure, dei timori nelle organizzazioni aziendali. Abbiamo lavorato sull'ambiente e la sicurezza, dove abbiamo vincolato contrattualmente degli investimenti su lo stabilimento di Bologna, perché lo stabilimento di Bologna soffre di essere uno stabilimento storico del 1942, dove gli spazi sono quelli che sono. Noi abbiamo vincolato contrattualmente che gli investimenti fossero fatti qua e non in aree dove è più facile sfruttare il vantaggio economico. Questo è molto importante. Sulla previdenza complementare abbiamo messo valore anche economico su quello che è una realtà come Previlabor, una realtà che le tre sigle confederali hanno creato e sostenuto nel tempo, una realtà che fa davvero la differenza per le persone che lavorano e che purtroppo per il sistema di legislazione italiana attuale si troveranno ad essere penalizzate rispetto ai lavoratori del passato. Abbiamo aumentato appunto i diritti individuali, avevamo 40 ore a titolo individuale di visite mediche, le abbiamo spacchettate, siccome abbiamo fatto un'analisi interna e non tutti usavano queste ore, anzi pochissimi, tutte 40, abbiamo messo che prima il parente di primo grado tu puoi assentarti 10 ore per accompagnare. Questo crediamo che anche nell'ottica di rendere insomma fruibili questo diritto, che alla fine c'era, è stato un grande orgoglio del passato, ma che alla fine non veniva utilizzato. Aumentati i permessi per le malattie dei figli, abbiamo integrato al 30% l'aspettativa per la maternità, abbiamo fatto che per il primo mese di congedo parentale, quindi anche per il papà, c'è un'integrazione al 100% della retribuzione, perché la genitorialità è un momento cruciale della vita delle persone che non devono per forza spendere a lavorare alla catena, ma possono godere di questa cosa. Qua in effetti l'azienda ha riconosciuto che di poter fare questa cosa, e quindi è stata una cosa che sinceramente è venuta di reciproco interesse. Abbiamo aggiunto 2 giorni di permesso di paternità, appunto perché purtroppo, e qua verrò dopo, abbiamo una popolazione prettamente maschile, purtroppo, ma ultimamente siamo riusciti ad invertire questa rotta di tendenza, che con un cambio manageriale di nuova nomina stiamo finalmente portando le donne in fabbrica. Abbiamo ottenuto che finalmente riusciamo a portare dentro ragazzi e ragazze o persone più anziane provenienti da aziende in crisi sul territorio. Abbiamo chiesto che l'azienda si impegni a sostenere persone provenienti da strutture come per esempio su Bologna la Casa delle Donne, vittime di violenza, eccetera. Perché crediamo che appunto il lavoro, no, come diciamo sempre, il lavoro sia il primo elemento di dignità e col quale poter ricostruire una nuova vita. Se non hai il lavoro, non hai il salario, noi persone proletarie non abbiamo la dignità che ci spetta. Quindi un buon lavoro, un buon salario, un buon posto di lavoro dove c'è la contrattazione forte di tanti anni di storia sindacale possono dare a persone che prevengono da anche difficoltà di vita, insomma, a un livello di riscatto davvero reale. Ecco. Abbiamo sostenuto rispetto a un'altra sigla sindacale che è presente in azienda è presente la FIM e la USB, abbiamo sostenuto la tematica della quota contratto, sebbene anche noi chiaramente da 120 e più anni sosteniamo che il vero sistema di partecipazione delle persone sia l'iscrizione al sindacato. Chiaramente per fare contrattazione di buon livello servono delle strutture e noi chiediamo ai non iscritti un contributo, ma l'obiettivo primario, questo è stato frutto anche di una piccola polemica con USB, è chiaro che sia l'iscrizione e il sostegno al sindacato. Allora, una cosa ti volevo chiedere, prima della firma di questo contratto interno, in realtà la questione dell'orario a 7 ore, di cui noi abbiamo fatto anche una puntata specifica, perché è stata davvero un'innovazione, passare dalle 40 ore alle 35 ore, è la vera novità della Toyota, perché è il primo accordo di passaggio a 35 ore senza nessuna perdita di PAR. E questa è stata una cosa, perché io per esempio ce l'ho questo accordo dagli anni 80, ma ho perso dei PAR per ottenere 35 ore. Purtroppo sì, siamo figli di tutti, purtroppo per fortuna, siamo figli di quella gloriosa storia, di quelle compagne e quei compagni che negli anni 80 riuscirono sulle aziende del territorio a portare questa famosa grande conquista. Siamo riusciti sì a siglare questo importante accordo dove 7 ore si lavora sul turno, pagate 8 euro di indennità, noi ne avevamo 6, e soprattutto il mancato assorbimento dei PAR della ROL. Non è colpa del lavoratore se deve fare i turni, non è colpa del lavoratore se il modello organizzativo, le esigenze aziendali, le esigenze del mercato se portano a fare adottare questa modalità di organizzazione del lavoro, perché siamo arrivati a capire che perché il lavoratore deve rimettere PAR quando in realtà lui alle 5 della mattina starebbe volentieri a casa sua con i suoi figli, e alle 8 della sera sarebbe volentieri con la signora, la compagna, il compagno, quello che è, a fare due chiacchiere sulla giornata anziché stringere delle viti. Ecco. Insomma, questa è stata veramente la conquista. I PAR sono tempo che le persone hanno diritto a usare per i loro interessi. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare, è proprio questo, no? Che si può ridurre l'orario senza perdere ferie. Questo è oltretutto provato da un sistema aziendale che funziona. Noi, grazie al cielo, grazie a noi, grazie alle persone che ci lavorano, grazie al merito di tutti, abbiamo mercato, conquistiamo fette di mercato, abbiamo profitto, abbiamo performato anche durante il periodo di Covid. Quindi un modello così è sostenibile. Questi i metalmeccanici e le metalmeccaniche lo dicono da 30 anni, evidentemente cominciano a capirla loro anche adesso. Ok, ti ringraziamo Fabio, abbiamo ascoltato Fabio Dorlai, delegato della Toyota Bologna, e grazie ancora per l'intervista Fabio. Solo uniti, solo insieme, solo iscrivendosi al sindacato, alla FIOM in particolare, possiamo davvero tornare a sognare di toccare il cielo con un dito. Ok, grazie. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer, no en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer, no en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón, estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo, no me arrepiento, me cago en el amor. Es un mundo difícil, e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voglio credere en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como soy yo, porque voy a creer yo en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien. Parezca, no tienes la culpa es del amor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo, no me arrepiento. Me cago en el amor. E vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto, e concerto e calma, il fuoco e l'acqua, sonata di vento, e nostra piccola vita, e nostro grande cuore. Difficile. Abbiamo ascoltato Fabio Torlai, ci ha raccontato i punti secondo lui importanti di questo accordo. Io ritengo che personalmente che la parte veramente importante di questo accordo è stata firmata prima. È stata firmata quando in Toyota avevano bisogno di lavorare e stavolta finalmente i lavoratori insieme alle RSU, insieme alle organizzazioni sindacali hanno finalmente deciso di spingere per quanto riguarda di non fare solo gli straordinari ma soprattutto di introdurre la doppia turnazione in questo caso. E introdurre i turni cosiddetti alla bolognese, 7 ore pagate per 8, e sono riusciti a non perdere i par, che è stata la vera innovazione di questa turnazione. Questo è un modello, perché lavorare meno ore significa più occupazione, fare i turni che spesso sono disagiati, sono un problema per i lavoratori, fare i turni, il turno centrale chiaramente è un turno che ha dei svantaggi di tipo insomma di libertà durante la giornata, ma è un lavoro meno faticoso. Ricordiamo che abbiamo un'ora di pausa dopo 4 ore, insomma i turni non sono sempre comodi, prevedono dei sacrifici, ma quando si riduce l'orario, si aumenta l'occupazione, veramente sono cose importanti che devono essere affrontate in questa maniera, e questa è la cosa da fare, insomma ridurre l'orario a parità di salario, anzi aumentando il salario. E questo contratto interno è stato aumentato il salario, Torlai mi pare che non l'abbia detto, ma il premio di risultato del 2025 è stato previsto di 3.000 euro. Ci sono parti di strutturale, e poi c'è la questione delle questioni, il fatto di aver fatto mettere nero su bianco che gli investimenti dovuti ai profitti che verranno effettuati saranno fatti in Italia. E poi c'è l'altra questione della precarietà, aver scritto che in Toyota non si applica lo staff leasing, che è una delle piaghe della precarietà, e aver messo nero su bianco che dopo 12 mesi la Toyota deve assumere o licenziare il lavoratore precario, anche qui stiamo parlando di qualcosa di importante. Certo, sono importanti anche le borse di studio, tutti i permessi per la famiglia che sono stati inseriti su un modello, diciamo, Lamborghini, che è stata l'apripista di questi permessi, di cominciare a ragionare di aumentare i congedi parentali, la maternità, la paternità. Insomma, sono cose importanti, però poi alla fine la questione dell'orario, la questione del salario, la questione dei diritti, combattere la precarietà, sono le cose che poi spesso si dicono a livello anche nazionale e non si riescono a fare. Il 18 ci sarà una manifestazione importante, che chiaramente noi come lavoratori metalmeccanici avremmo voluto uno sciopero generale, avremmo voluto che fosse stato fatto prima, però oggi c'è una manifestazione fatta solo dalla CGIL. Si va verso forse una sempre più lontananza tra CGIL e CISL e UIL, in cui questi sono i temi. Poi alla fine le battaglie si riescono a vincere in aziende chiaramente che vanno molto bene come una Toyota, perché Fabio è stato onesto, l'ha detto, ci sono stati fatti un sacco di profitti anche durante la pandemia, ma chiaramente c'è anche una posizione sindacale, perché le cose che sono state conquistate in Toyota sono state chieste anche in altre aziende, sono state acquisite anche in aziende in parte alcune di queste cose, e c'è una linea sindacale che punta effettivamente a conquistare i diritti e non sempre a difenderli. Questa è la cosa importante. Dunque si può fare, si può lottare, si possono ottenere risultati, questo ci insegna la Toyota. Si può osare anche quando nessuno ha il coraggio di farlo, diminuire l'orario, dire no alla precarietà, pensare al salario in maniera corposa e insomma affrontare anche i problemi che tutti quanti noi lavoratori abbiamo a livello familiare e tutto. Ora io vi lascio, ne parleremo sempre di contrattazione nelle prossime puntate. Questo è anche il nostro compito, farvi conoscere quello che accade nei luoghi di lavoro, conquiste sindacali, non sempre solo sfighe, ma anche buoni accordi. E con la Toyota veramente pensiamo di aver fatto il nostro dovere di compagni metalmeccanici. Alla prossima puntata, compagni. Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar, entre il proletariato, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Va a ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad.